commentiamo il successo di questa trasmissione dal punto di vista tecnico. All'alba delle 15, con mezz'ora di ritardo, siamo riusciti a iniziare più o meno questa trasmissione radiofonica. Benvenuti a tutti i complottisti di tutto il mondo. Questa è l'ora del complotto, Radio Exalge, ne diremo di tutti i colori. Quando il mio conduttore preferito, co-conduttore Jack Manz Manzukic, arriverà da Atene, saremo pronti a condurre questo primo episodio. Io intanto vi intratterrò con un po' di cacate. Cos'è il complotto? Singolare maschile, dal francese gomblot, di etimo incerto, e già la definizione è un gomblotto. Cospirazione, congiura, intrigo ai danni delle autorità costituite o privati o chiunque, qualunque cosa, gruppi, società, un'idea. Arrestando gli autori del complotto, il complotto svanisce, ma i mandanti sono spesso sconosciuti, e dunque un intrigo, qualcuno che trama, un intrigo di cui qualcuno è vittima, altri spettatori, solo spettatori, qualcuno può sospettare, questo aspetto può essere fondato o meno. Che bella la parola ordire complotti, sembra quasi che le due vanno insieme, che siano state create una per l'altra. Il genere umano si distingue tra gli esseri viventi per le facoltà di immaginare, mentire, programmare il futuro, e tradizione ordire complotti. Senza queste facoltà umane la società non sarebbe quella che conosciamo. La cosa non struggerebbe troppo noi misantropi disadattati. Invece ciò che ci farebbe sentire in mancanza sarebbe l'assenza di complotti stessa. Non tanto la mancanza delle conseguenze, di cosa distruggono e creano le congiure, non di chi le organizza, non di chi le vede ovunque. Infatti l'uomo ha la facoltà anche di adattarsi alle mancanze. Sentiremo dunque venir meno il tramare in sé, l'idea di poter giocare con l'immaginazione, con l'invenzione, l'intreccio, le variabili inaspettate, le incognite che costituiscono la storia e l'attualità. L'ambiente del complotto, infatti, è l'ambiente del giallo, del romanzo, del giornalismo investigativo, delle rivoluzioni. Noi tutti, in quanto autori, romanzieri, rivoluzionari, chi più, chi meno, ma almeno nella nostra vita, nel nostro piccolo, siamo tutti complottisti de facto. Non c'è niente da confutare. Questo è il rumore del frigorifero che vi accompagna. Un altro complotto oggi ci è dedicato dal mio telefono, che continua a scaricarsi nonostante sia in carica. Il complotto dell'obsolescenza programmata. L'obsolescenza programmata. Per farci comprare sempre di più, sempre cose nuove. E allora, togliendo anche questo eco fastidioso, troppe manopole da girare oggi. Siamo tutti complottisti de facto. Chi non è stato vittima di un complotto nei corridoi di scuola, negli uffici delle nostre aziende, dappertutto. Queste voci che corrono, questa disinformazione che dilaga tra le ragazzine alle medie. E quella che è bella, quella che è brutta. Allora, questa pagina del sito dell'Unione Europea ufficiale contro i complotti, l'autorità costituita che denuncia il complotto. È proprio un complotto contro l'idea di complotto. E se voglio posso dire un'altra volta complotto. Fa bene l'autorità a mettere in guardia e a scoraggiare l'intrigo, il complotto, la disinformazione in questo mondo di sovrainformazione. Sappiamo che ci sono intrighi e intrallazzi, appunto, dai corridoi delle scuole della nostra infanzia fino alle stanze segrete dei cosiddetti poteri forti. Poteri forti. Perché allora scoraggiare gli interrogativi? L'uomo è un animale cattivo e falso, e forse la curiosità morbosa è proprio una difesa in lui insita contro la... in lui insita arma la menzogna. Menzogna. Mi è stato fatto notare, visto che io non leggo abbastanza, che nel libro Sapiens viene spiegato perfettamente come l'uomo di Neanderthal sia stato piano piano cancellato dalla faccia della Terra per la supremazia dell'uomo Sapiens, solo o forse anche perché l'uomo Sapiens è in grado di mentire. Un esempio banale potrebbe essere: l'uomo di Neanderthal non può mentire. Se ti dice vai al fiume a prendere l'acqua, che è sicuro, tu puoi andare al fiume a prendere l'acqua perché è sicuro. Invece un Sapiens può dirti vai al fiume a prendere l'acqua, e invece c'è un leone che ti uccide e lui si prende l'acqua per sé. Questo è il complotto primordiale. Da qui nasce tutto. L'uomo è un animale cattivo. Il punto dell'autorità, ovviamente, è scoraggiare le cazzate. Eppure, che mezzi abbiamo nel nostro piccolo per distinguere un complotto vero da una trollata di massa? Ed è per questo che, per questa trollata di massa, che la canzone che ci accompagna da tempo ormai è Trololo di Edward Anatolievich Kiel, anche detto Mr. Trololo. Ascoltate, che bello, il rumore del compressore del frigorifero. Ecco Giovanni che entra in associazione. Giovanni ha la domanda se volesse partecipare al programma, narrandoci dei suoi complotti, delle sue idee del complotto. Ha detto: quali complotti esattamente? Perché lui di idee ne ha molte, parecchie, ma non ce le vuole esporre. Allora, come facciamo a conoscere la verità se non abbiamo risorse? Dovremmo forse dubitare di tutto come Cartesio e rimanere nell'impasse e poi riniziare da capo pensando di aver trovato qualche soluzione? Come detto, l'Unione Europea ci viene in soccorso, stilando pagine e pagine su come non cadere nella disinformazione. Ecco gli strumenti che ci fornisce per combattere le cazzate e consolidare invece i nostri dubbi più sani. Controlla l'autore, controlla le fonti, controlla i toni e lo stile. Beh, mi sembrano dei strumenti fantastici. Grazie a questi consigli, controlla l'autore, controlla le fonti, controlla i toni e lo stile, grazie a questi consigli riusciremo solo a dubitare dell'intelligenza di chi ha speso risorse e tempo per scrivere libri e articoli per combattere la disinformazione. Perché il complotto non è disinformazione, ma una congiura, e non si prova o confuta leggendo articoli in bello o brutto stile, con un bello o brutto autore, delle belle o brutte fonti, ma con i fatti e i corpi di reato, il che rende qualsiasi avvenimento non direttamente collegato all'individuo praticamente non verificabile. La verità oggettiva è un privilegio dei pochi direttamente coinvolti, e forse nemmeno loro. La verità non è un concetto applicabile a tutti gli ambiti della conoscenza. ridatemi Trololò. Dicevamo, la verità oggettiva è un privilegio dei pochi direttamente coinvolti, forse nemmeno loro. La verità non è un concetto applicabile a tutti gli ambiti della conoscenza. Non è applicabile al forno a microonde che è appena suonato, che potete sentire dal microfono. Non è applicabile la verità, il concetto di verità, al mondo delle voci di piazza, delle voci di corridoio, delle voci della rete. Insomma, al mondo dell'uomo in sé, l'uomo dalla vista annebbiata, corrotto, implicato e falso, come ci insegna Rashomon di Akira Kurosawa. La verità va cercata e va trovata, non ci può essere data. E solo pochi dedicano la loro vita alla ricerca della verità, perché è appunto dannatamente difficile. Non solo dannatamente difficile, ma a parte essere quasi impossibile, la verità si nasconde, quasi non c'è, perché tutto è falso. E falso è tutto. Questo mondo corre come un aeroplano e mi appare più sfumato e più lontano. Per fermarlo tiro un sasso contro vento, ma è già qui che mi rimbalza pochi metri accanto. Questo è un mondo che ti logora di dentro, ma non vedo come fare ad esser contro. Non mi arrendo, ma per essere sincero io non trovo proprio niente assomiglia al vero. Il tutto è falso, il falso è tutto. Il tutto è falso, il falso è tutto. E allora siamo un po' preoccupati per i nostri figli, ci spaventano i loro silenzi, i nostri sbagli. L'importante è insegnare quei valori che sembrano perduti, con il rischio di creare nuovi disperati. Il tutto è falso, il falso è tutto. Non a caso la nostra coscienza ci sembra inadeguata. Questo assalto di tecnologia ti ha sconvolto la vita. Forse un uomo che allena la mente sarebbe già pronto, ma guardarlo di dentro è rimasto all'Ottocento. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a giudicare, non so neanche che cosa dire della mia solitudine. Guardo con il mio telecomando e mi trovo in mezzo al mondo, alla sua ambiguità. Qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale, che il mercato risolva da solo tutte le miserie e che le multinazionali siano necessarie. Il tutto è falso, il falso è tutto. Ma noi siamo talmente toccati da chi sta soffrendo. Ci fa orrore la fame, la guerra, le ingiustizie del mondo. Com'è bello occuparsi dei dolori di tanta, tanta gente, dal momento che in fondo non ce ne frega niente. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a ritrovare qualche cosa per farmi uscire dalla mia solitudine, cerco di afferrare un po' il presente, ma se tolgo ciò che è falso non resta più niente. Il tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto quello che si sente, quello che si dice, il falso è un'illusione che ci piace, il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti, il falso è misterioso e assai più oscuro, se mescolato insieme a un po' di vero, il falso è un trucco stupendo per non farci capire questo nostro mondo, questo strano mondo, questo assurdo mondo in cui tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto. La verità al momento occupata, preghiamo di riprovare più tardi. Preamboli sono finiti, dunque largo alle teorie e alle cospirazioni che nascono sempre da grandi punti di domanda, come questo. Perché nessun arbitro estrae mai un cartellino giallo per simulazione, nonostante questo possa rendere il calcio uno sport indiscutibilmente assai più bello? E oltre a questo, alieni, gruppo Bilderberger, case farmaceutiche, Wall Street, illuminati, templari, NASA, lo sbarco sulla Luna, torri gemelli, morti non morti come la Clinton o Elvis o John Lennon, il Covid. Si accodano un paio di letture di poesie di Giovanni, che ha trovato il suo modo di esprimersi nell'ora del complotto. Sono poesie complottiste, vero? No, dice di no con la testa. E poi ci sarà la lettura anche di Marta, leggerà Arsenico di Primo Levi, Diario di Bice De Lorenzi sulla Seconda Guerra Mondiale, Il racconto di un naufrago di García Márquez. Adesso vi dirò che metto Tuve que quemar. Nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele de parte. Tus aromas tan crueles, por eso. Intanto Giovanni ci voleva leggere una poesia. Ciao a tutti, la poesia che leggo si chiama Alge the Tribe e nasce appunto dalla mia esperienza qui in Alge. Fa così, Alge the Tribe. In fondo è una fabbrica coi gatti, la moca piena, dubbi, scale e un punto insostenibile di metà giornata. Turno mio, specchi arrivo, ipotesi tende in giardino, the tribe. Scrambled eggs, i fiori di zucca li metto o non li metto? Sembrano code di pesci da acquario. Vai, vai, cose fatte. Putnantur delle piante. Sbriciolato ciò che resta della mattina. Scavallato erbe infestanti dai vicini. Presenziato al precipizio di una nespola. Lancio di lumache in tre nord. Trovata tana scarafaggi, blatta orientalis. Osservato il becca così a lungo il pomeriggio che dai. In fondo c'è anche un genio del fascio e cosa stiamo qui a parlare? Alge the tribe. E la retromarcia dei furgoni Rai, male male. La seconda poesia invece si chiama A John Gallotti, è dedicata a un amico un po' strano. Fa così. A John Gallotti, dalla vista lunga su al sedicesimo. John Gallotti che banchetta con le cornacchie, ma non vuole essere una di loro. A John Gallotti, artificiere, ranucolo, canappa, traghettatore, mercante, negoziatore, orto cecchino. A John Gallotti che si punse e chiamò perdita ciò che trovò. A John Gallotti eretico, alienofolo, possidente olivetano, paratattico, prolisso, ermetico, etico, celtico, cetaceo, scorcio subacqueo, litosferico, spietato. A John Gallotti, capitano di sottomarino, settore oceanico 333. A John Gallotti inseguito, terrorizzato osservatore del vuoto, ipoco intimi ardimentoso, maratoneta. John Gallotti velocemente diretto in nessuna direzione. John Gallotti cutaneo, tettonico. A John Gallotti di discendenza arboricola, raganella sempre in cerca di richiami amorosi. Decorato missile, frog panzer, atro ordigno nibelungico. Grande navigatore solitario. A John Gallotti fallo maniaco, famelico, per noi ex ADM, amico di Mino, non conoscendone il cognome. Bambino senza un gioco, compratore di tastiere. Gallotti dall'oltretomba del citofono vende la sua voce in microbi di suoni. Gallotti avvitato e liberto, contrario, antilibresco, fitologo, organico, condominiale, organico condominiale. A John Gallotti car junkie, food freak, porn tennista, frisbee champion, tenderly in love, protochimico, alchimista, nella sua cucina rachitica. Gallotti predatore giurastico. A John Gallotti liminale, figlio degli altipiani, percorritore dei sensi in tutti i sensi. A John Gallotti esattore, idraulico, antimedico, crociato, spotifatto. A John Gallotti e la sua Lilli, ninfea americana, e le loro scarpe e le loro sciarpe sempre alla moda. A John Gallotti, lucido osservatore di scarabei e ciò che brucia nel loro specchio viola. Grazie Giovanni, potevo quasi rimanerci, questo lo considero il terzo, quarto o quinto complotto della giornata. Grazie mille per Alge Tribe, grazie mille anche per John Gallotti, che devo dire è un pezzo a lui, grazie a lui. Grazie John Gallotti. E, signori e signori, qua c'è bisogno di chiamare Marta alle armi, perché finché Jack Manzukic non arriva da Atene a parlare dei suoi poliziotti nelle università, noi mandiamo avanti letture su letture. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Exalge. Io inizierei da Un diario nella guerra di Bice De Lorenzi. Fantastico, a cura di Sergio Pedemonte, grande storico delle montagne italiane, che salutiamo, anche se non ci ascolterà mai nella sua vita. Marta. A Genova aspettano l'arrivo della flotta inglese. I tedeschi sono padroni di tutta l'Italia, sino a Roma. Radio Londra dice e ridice che presto verranno a liberarci, ma io ci credo poco per ora, e poi anche quelli sono nemici. Si dice che il re e Badoglio sono fuggiti, si è ricostituito il partito fascista, d'accordo ai tedeschi, siamo tutti disorientati, abbiamo qui dei soldatini siciliani fuggiti dal presidio. Lunedì, pare che il duce sia fuggito, o meglio, sia stato rapito da paracadutisti mandati da Hitler. Ricominciano a circolare le camicie nere. Non so che succederà, perché qui c'è grande movimento di truppe germaniche. la nostra flotta si è consegnata agli inglesi. Di certo c'è una cosa sola. L'Italia fa schifo. Primo il re. 26 luglio, festa di Sant'Anna in Alpe. Stamani mi sono alzata presto per andare a Genova. Ho dormito poco perché tutta la notte c'è stato andare e venire di camion e soldati. Ne ho saputo ora il motivo. Me l'ha detto Pi, che lavorava giù nell'orto. Mussolini se n'è andato e Badoglio ha preso il comando. Non lo volevo credere, ma tutti lo sanno, che la radio l'ha annunciato ieri sera tardi. La gente sembra impazzita dalla gioia. Io non so che pensare. In questo momento sarà meglio o peggio? Certo non poteva durare. Vado a Genova alle 8. A Genova grande apparato di forze. Dimostrazioni. Alle 10, invece della solita sirena, allarme. Nessuno ci crede, ma l'artiglieria spara a lungo. Mando via gli allievi dal liceo e pian piano vengono nel centro. Dimostrazioni che mi disgustano. Scritte ingiuriose, ritratti del duce insultati e deturpati. Sic transit gloria mundi. Parto alle 12. Si temono disordini più gravi. Ancora allarme. Il treno ritarda molto. Sono sfinita. E non vado più in Alpe. Dimostrazioni più gravi. La truppa spara. Qualche morto. Negozi svaligiati, eccetera. Si parla di fatti gravissimi a Milano, con centinaia di morti. Cose orribili a San Pier d'Arena e Sestri. Nel pomeriggio a Isola, dimostrazione antifascista in strada davanti a esse. Gli ex fascisti, da qualche anno convertiti, gridano più forte degli altri. Insultano pugni. Esse e gli altri sono scappati. Gli ex socialisti trionfano. Penso a papà e a quello che ha sofferto da questa gente che ora ha il coraggio di chiamarsi antifascista. E sono gli ex quadristi, quelli dell'olio di ricino e del manganello. I ricchi del paese ostentano sentimenti democratici ed antifascisti, dimenticando il passato. Non credo riusciranno lo stesso a salvare milioni. Tutti sperano in tempi migliori. Io vedo più nero che mai e credo sia questo il momento più critico della storia d'Italia. Comunque Badoglio è riuscito ad evitare la guerra civile ed è una gran cosa, speriamo in Dio. Nauseata di tanta vigliaccheria, sono andata a far visita a Pugni e da sua moglie. Fanno pena. Tutti gli amici si sono eclissati. Mi ha ringraziato commosso. Però non sono riusciti a bruciare gli incartamenti del fascio che Pugni ha consegnato al comandante del presidio. E molta gente non voleva che distruggere i documenti del passato per rifarsi una verginità alla quale nessuno crede, anche se sono passati 20 anni. Si sono sfogati con un bassorilievo del duce e altre cosette. Luglio 1943. Notizie di gravi disordini. Lo stato di assedio è molto rigoroso e alle 21 bisogna ritirarsi. Sono sempre più nauseata dal contegno di certa gente. Ora è certo che la guerra continua. Ancora disordini. Ad uno cadono gli altri papaveri. Spettacoli di viltà, mancanza di carattere, impudenza. Sento più che mai l'orgoglio di avere una personalità netta e ben definita. L'avvenire è oscuro e grave di eventi. I gerarchi sono tutti fuggiti. Le vendette continuano. Solo la nostra famiglia, che è stata rovinata dal fascismo, conosce la legge del perdono cristiano. Sabato 6. Il Vaticano è stato bombardato ieri da aerei sconosciuti. Qualche danno ai sacri palazzi. San Pietro, lesionato, nella cupola dove ha dovuto essere chiuso. Gli inglesi danno la colpa ai tedeschi, i quali avrebbero colpito con bombe inglesi. I tedeschi incolpano gli inglesi. La verità sta in fondo al pozzo. Adesso questo estratto anonimo che si chiama Invidia, che ci è arrivato dal nostro radioascoltatore. Prego Giovanni. Invidia. Acrostico, allitterazione, anafora, anadiposi, anagramma, associazione, assonanza, ballata, canzone, consonanza, endecasillabo, metafora, metonimia, onomatopeia, ossimero, ottonario, paranomasia, polisemia, polisenso, quartina, quinario, rima, ritmo, asestina, settenario, sinestesia, sonetto, terzina, poesia. Doveva essere solo mia. Non sopporto che altri creino qualcosa che non possono. Così ho tramato e adulato la mia vita, ho votato all'inganno, alla tecnica e all'affanno segreto. Diventato poeta di corte, i poeti ho fatto condannare a morte. Con arte nascosta li ho eliminati dalla nazione. Li ho spediti a marcire nei campi di deportazione, nelle periferie dove l'inverno è la stagione più mite. Da dove il ritorno è una chimera. Ora sono morti stecchiti, gli uccelli della mia voliera. Il mio alito è greve, i miei sonetti per gli anniversari delle figlie baffute del tiranno non catturano l'applauso della festa. Hanno rime stantie e odo voci di rivolte delle regioni ghiacciate dell'impero che giungono fino alla capitale su canti sublimi di poesie. Marta è pronta con Gabriel García Márquez, racconto di un naufrago, ma prima vi dirò perché abbiamo scelto Un diario nella guerra di Bice De Lorenzi. Non so se è trasparso dalle pagine che abbiamo letto, ma in quel momento, 1942-1943, non era molto chiaro chi fosse il vincitore, chi fosse il vinto, chi fosse nel giusto e chi fosse nel torto. Per molto tempo i partigiani da Bice vengono chiamati ribelli nel suo diario. E solo a un certo punto c'è un giramento di coscienza. Lo stesso vale per l'immagine che aveva di Mussolini. La cosa è abbastanza clamorosa perché noi siamo abituati a vedere quella parte di storia in particolare come nero o bianco, mentre per le persone che la vivevano era attraversata da un milione di sfumature, come direbbe Tony Servillo in Hanno tutti ragione. La sfumatura è la cosa importante. Il complotto gioca molto sulle sfumature. Il complotto lo possiamo vedere anche in Gabriel García Márquez. Questa volta ve lo anticipo al posto che posticiparvelo. Lui si è trovato in redazione giornale questo eroe nazionale che giocava sulla sua fama di naufrago, che gli ha detto: io a voi voglio raccontare la storia vera di quello che mi è successo. Quindi quasi svelare un complotto. La storia vera va a danneggiare quella che era l'immagine dello Stato, allora dittatura Colombia, mi sembra, perché i militari si servivano delle navi militari per trasportare merci di contrabbando e riempivano le loro navi fino all'orlo, ragione per la quale lui è naufragato. Lui è stato spacciato come un eroe per tempo, finché ha voluto lui, finché la sua coscienza gli ha permesso di continuare a vivere della fama di eroe, fino a che non si è costituito, diciamo, a un giornale, al giornale in cui lavorava Gabriel García Márquez. Lui si è costituito e praticamente ha mandato a puttane la sua vita e però un po' anche quella del partito dittatoriale che governava la Colombia in quegli anni, facendo crollare un mito di onnipotenza che sempre si va a formare attorno alla dittatura. Senza aver dormito un minuto, alle 4 del mattino del 28, i 6 della guardia a disposizione ci raccogliemmo a poppa. Fra di loro Ramon Herrera, il mio compagno di tutti i giorni. Il sottufficiale di guardia era Guillermo Rosso. Quella fu la mia ultima missione a bordo. Sapevo che alle 2 del pomeriggio saremmo stati a Cartagena. Pensavo di andare a dormire appena finita la guardia, per potermi poi divertire la notte in terraferma, dopo 8 mesi di assenza. Alle 5.30 del mattino andrei a fare un'ispezione alle stive, accompagnato da un mozzo. Alle 7 rilevammo il personale ai posti di navigazione, per andare a far colazione. Alle 8 tornarono a darci il cambio. Esattamente a quell'ora passai le consegne della mia ultima guardia, senza novità, nonostante il vento aumentasse e le onde, sempre più alte, si infrangessero sul ponte bagnando la coperta. A poppa c'era Ramon Herrera. E c'era anche, in servizio di soccorso, Luis Renquifo, con gli auricolari applicati. In coperta, sdraiato, agonizzante col suo eterno mal di mare, c'era il capo Miguel Ortega. In quel punto il movimento si sentiva meno. Chiacchierai un po' col sottocapo Eduardo Castillo, magazziniere, scapolo, bogotano e molto riservato. Non ricordo di che cosa parlammo. So soltanto che da quel momento non ci rivedemmo, sin quando, poche ore dopo, non scomparve in mare. Ramon Herrera stava raccogliendo certi cartoni con cui coprirsi per cercare di dormire. Dato il movimento era impossibile riposare nei dormitori. Le onde, sempre più forti ed alte, si abbattevano in coperta. Ramon Herrera ed io ci sdraiammo, ben sistemati, per evitare che un'onda ci travolgesse in mezzo ai frigoriferi, alle lavatrici e alle stufe. Disteso supino, contemplavo il cielo. Mi sentivo più tranquillo, sdraiato, con la sicurezza che di lì a poche ore saremmo stati nella baia di Cartagena. Non c'era tempesta, il giorno era perfettamente limpido. La visibilità era completa e il cielo profondamente azzurro. Non avevo neanche gli stivali stretti, perché, una volta finita la guardia, li avevo sostituiti con delle scarpe di gomma. Un minuto di silenzio. Luis Renchifo mi chiese l'ora. Erano le 11:30. Da più di un'ora la nave aveva incominciato a sbandare, inclinandosi pericolosamente a tribordo. Gli altoparlanti trasmisero ancora una volta l'ordine della notte precedente. Tutto il personale a babordo. Ramon Herrera ed io non ci muovemmo, dato che ci trovavamo già da quella parte. Pensai al capo Miguel Ortega, che aveva quasi visto un momento prima a tribordo, ma quasi nello stesso istante lo vidi passare ondeggiando. Si buttò a babordo, agonizzando col suo mal di mare. In quell'istante la nave si inclinò paurosamente, sembrò drizzarsi. Trattenni il respiro. Un'onda spaventosa si abbatté su di noi, lasciandoci fradici, come se fossimo appena usciti dal mare. Con molta lentezza, faticosamente, il cacciatorpediniere recuperò la sua posizione normale. Al posto di guardia, Luis Renchifo era livido. Disse innervosito: «Che roba! Questa nave va giù e non vuole tornare indietro!» Era la prima volta che vedevo Luis Renchifo nervoso. Vicino a me, Ramon Herrera, pensieroso, tutto bagnato, rimaneva in silenzio. Ci fu un istante di silenzio totale. Poi Ramon Herrera disse: «Quando daranno l'ordine di tagliare le funi per buttare a mare il carico, io sarò il primo a farlo». Erano le 11:50 minuti. Pensavo anch'io che da un momento all'altro avrebbero ordinato di tagliare le funi del carico. È quello che si chiama segnale di alleggerimento. Radio, frigoriferi e stufe sarebbero caduti in mare nel momento stesso che fosse stato dato l'ordine. Pensai che in quel caso sarei dovuto scendere in dormitorio, perché a poppa eravamo al sicuro, in quanto eravamo riusciti a trovare un posto tra i frigoriferi e le stufe, senza i quali l'onda ci avrebbe sicuramente travolto. La nave continuava a difendersi dalle onde, ma sbandava sempre di più. Ramon Herrera srotolò un telo da tenda e si coprì. Una nuova onda, più grande della precedente, si abbatté ancora una volta su di noi, quando eravamo già protetti dalla tenda. Mi afferrai la testa con le mani, mentre l'onda passava, e mezzo minuto dopo gli altoparlanti gracidarono. «Stanno per dare l'ordine di tagliare il carico», pensai. L'ordine invece fu un altro, dato con voce sicura e tranquilla. «Il personale che transita in coperta faccia uso del salvagente». Con calma, Luis Renchifo trattenne con una mano gli auricolari e con l'altra si mise al salvagente. Dopo ogni ondata enorme, io sentivo dapprima una sensazione di vuoto e poi un profondo silenzio. Vidi Luis Renchifo che, indossato il salvagente, tornava a mettersi gli auricolari. Allora chiusi gli occhi e sentì perfettamente il tic-tac del mio orologio. Ascoltai l'orologio per un minuto all'incirca. Ramon Herrera era immobile. Calcolai che le doveva mancare un quarto d'ora alle 12. 2 ore per arrivare a Cartagena. La nave parve sospesa nell'aria per un secondo. Estrassi la mano dalla tasca per guardare l'ora, ma in quel momento non vidi il braccio, né la mano, né l'orologio. Non vidi l'onda. Sentii che la nave se ne andava del tutto e che il carico al quale stavo appoggiato stava rotolando. Mi misi in piede. In una frazione di secondo l'acqua mi arrivava al collo. Con gli occhi sbarrati, livido e silenzioso, vidi Luis Renchifo che cercava di riemergere, tenendo gli auricolari sollevati. In quel momento l'acqua mi coprì completamente e incominciai a nuotare verso l'alto. Cercando di risalire in superficie, nuotai verso l'alto per 1, 2, 3 secondi. Continuai a nuotare verso l'alto. Mi mancava l'aria, stavo per morire asfissiato. Cercai di afferrarmi al carico, ma il carico non c'era ormai più. Attorno non c'era ormai più nulla. Quando tornai a galla non vidi attorno a me niente di diverso dal mare. Un secondo dopo, a un centinaio di metri di distanza, la nave emerse dalle onde, versando acqua da tutte le parti, come un sottomarino. Soltanto allora mi resi conto di essere caduto in acqua. Ed ecco che la nave, non avendo sganciato il carico di merci di contrabbando, entra nelle onde molto più del dovuto e ci lasciano le penne. 6 persone, 5, uno si salva, ma non vi stiamo spoilerando niente, perché leggere Gabriel García Márquez è leggere il racconto, non come finisce il racconto. E quindi possiamo già passare conto della tavola periodica di Primo Levi. Un elemento in particolare, arsenico, molto breve, molto bello, in questa edizione viene insieme a altri 3 racconti della tavola periodica e al racconto della Chiave a Stella, che consigliamo anch'esso, perché quando si ha a che fare con costruzioni, ingegneria, ogni problema è quasi un complotto. C'è sempre qualcosa da trovare, qualche soluzione da trovare, la soluzione al problema, il problema diventa un complotto. Arsenico, Come cliente, aveva un aspetto inconsueto. Nel nostro laboratorio umile e audace, a farsi analizzare le merci più disparate, veniva gente varia, uomini e donne, vecchi e giovani, ma tutti visibilmente inseriti nel grande reticolo ambiguo e furbesco del commercio. Chi per mestiere compra o vende si riconosce facilmente, ha l'occhio vigile e il volto teso, teme la frode o la medita e sta in guardia come un gatto all'imbrunire. È un mestiere che tende a distruggere l'anima immortale. Ci sono stati filosofi cortigiani, filosofi pulitori di lenti, persino filosofi ingegneri e strateghi, ma nessun filosofo, che io sappia, era grossista o bottegaio. Lo ricevetti io, poiché Emilio era assente. Avrebbe potuto essere un filosofo contadino. Era un vecchiotto robusto e rubicondo. Gli occhi apparivano chiari, mobili e giovanili, nonostante le grosse borse delicate che pendevano vuote sotto le orbite. Portava il gilet, dal cui taschino pendeva la catena dell'orologio. Parlava piemontese, il che mi mise immediatamente a disagio. Non è educato rispondere in italiano a chi ti parla in dialetto. Ti mette subito al di là di una barriera, dalla parte degli Aristò, della gente per bene, dei Luigini, come li chiamò il mio illustre omonimo. Eppure il mio piemontese, corretto come forma e suoni, è così liscio e snervato, così educato e languido, che appare poco autentico. Piuttosto che un genuino atavismo, sembra il frutto di un diligente studio al tavolino, a lume di lanterna, su grammatica e lessico. In ottimo piemontese, dunque, con argute venature astigiane, mi disse che aveva dello zucchero da chimicare. Voleva sapere se era zucchero o no, o se c'era magari dentro qualche porcheria, saloparia. «Quale porcheria?» Gli spiegai che, se mi avesse precisato i suoi sospetti, mi avrebbe facilitato il compito. Ma mi rispose che non mi voleva influenzare, che facessi l'analisi meglio che potevo. I suoi sospetti me li avrebbe detti dopo. Mi lasciò in mano un cartoccio con dentro un buon mezzo chilo di zucchero. Disse che sarebbe tornato l'indomani. Salutò e se ne andò. Non prese l'ascensore. Scese tranquillo a piedi le quattro rampe di scale. Doveva essere un uomo senza angosce e senza fretta. Da noi, di clienti ne venivano abbastanza pochi. Noi facevamo poche analisi e guadagnavamo pochi quattrini. Così non potevamo comprarci strumenti moderni e rapidi. I nostri responsi erano lenti, le nostre analisi duravano molto più del normale. Non avevamo neppure una targa in strada, per cui il cerchio si chiudeva e i clienti diventavano ancora più pochi. I campioni che ci lasciavano per le analisi costituivano un apporto non trascurabile al nostro sostentamento. Emilio ed io ci guardavamo bene dal far sapere che in generale bastano pochi grammi ed accettavamo volentieri il litro di vino, di latte, il chilo di pasta, di sapone, il pacchetto di agnolotti. Tuttavia, data l'anamnesi, e cioè i sospetti del vecchiotto, sarebbe stato imprudente consumare quello zucchero così alla cieca, ed anche solo assaggiarlo. Ne sciolsi un po' in acqua distillata. La soluzione era torbida, c'era certamente qualcosa che non andava. Pesai un grammo di zucchero nel crogiolo di platino, pupilla dei nostri occhi, per incenerirlo sulla fiamma. Si levò nell'aria polluta del laboratorio l'odore domestico ed infantile dello zucchero bruciato. Ma subito dopo la fiamma si fece livida e si percepì un odore ben diverso, metallico, agliaceo, inorganico, anzi controorganico. Guai se un chimico non avesse naso. A questo punto è difficile sbagliare. Filtrare la soluzione, acidificarla, prendere il kip, far passare idrogeno solforato. Ecco il precipitato giallo di solfuro e l'anidride arseniosa, l'arsenico insomma, il mascolino, quello di Mitridate e di Madame Bovary. Passai il resto della giornata a distillare acido piruvico ed a speculare sullo zucchero del vecchio. Non so come l'acido piruvico si prepari modernamente. Noi, allora, fondavamo acido solforico e soda in una casseruola smaltata, ottenendo bisolfato, che gettavamo a solidificarsi sul nudo pavimento, e macinavamo poi in un macinino da caffè. Scaldavamo poi a 250 gradi una miscela di detto bisolfato ed acido tartarico, per il che quest'ultimo si disidrata ad acido piruvico e distilla. Questa operazione la tentammo dapprima in recipienti di vetro, spaccandone una quantità proibitiva. Allora comperanno dal Ferrivecchi 10 canistri di lamiera, di provenienza Arar, azienda rilievo e alienazione residuati, di quelli che si usavano per la benzina prima dell'avvento del polietilene, che si dimostrarono adatti allo scopo. Poiché il cliente era soddisfatto della qualità e prometteva nuove ordinazioni, saltammo il fosso e dal fabbro del rione ci facemmo costruire un rozzo reattore cilindrico di lamiera nera, munito di agitazione a mano. Lo incassammo in un pozzo di mattoni pieni, che aveva sul fondo e sulle pareti quattro resistenti da 1000 watt, collegate illegalmente a monte del contatore. Collega che leggi, non ti stupire troppo di questa chimica precolombiana e rigattiera. In quegli anni non eravamo i soli, né i soli chimici, a vivere così. Ed in tutto il mondo 6 anni di guerra e di distruzioni avevano fatto regredire molte abitudini civili ed attenuato molti bisogni, primo fra tutti il bisogno del decoro. Dall'estremità del refrigerante a serpentina, l'acido cadeva nel collettore in grevi gocce dorate, rifrangenti come gemme. Distillava, insomma, stilla su stilla. Ogni 10 stille una lira di guadagno. Ed intanto andavo pensando all'arsenico e al vecchio, che non mi sembrava il tipo di tramare benefici e neppure di subirne, e non ne venivo a capo. L'uomo ritornò il giorno dopo. Insistette per pagare l'onorario, prima ancora di conoscere l'esito dell'analisi. Quando glielo comunicai, il suo viso si illuminò di un complicato sorriso grinzoso e mi disse: «Mi fa proprio piacere, io l'avevo sempre detto che finiva così». Era palese che non attendeva altro se non una minima sollecitazione da parte mia per raccontarmi una storia. Non gliela feci mancare, e la storia è questa, un po' deperita per effetto della traduzione dal piemontese, linguaggio essenzialmente parlato, all'italiano marmoreo, buono per le lapidi. Il mio mestiere è di fare il ciabattino. Se si incammina da giovani non è un brutto mestiere, se sta seduti non si fatica tanto e si incontra gente per cambiar parola. Certo non si fa fortuna e si sta tutto il giorno con le scarpe degli altri in mano. Ma questo si fa l'abitudine, anche all'odore del cuoio vecchio. La mia bottega è in via Gioberti, angolo via Pastrengo. Ci lavoro da 30 anni. Il ciabattino, ma lui diceva il cagliè, caligarius, venerando vocabolo che sta scomparendo. Il ciabattino di San Secondo sono io. Conosco tutti i piedi difficili e per fare il mio lavoro mi bastano il martello e lo spago. Bene, è venuto un giovanotto, neppure di qui. Alto, bello e pieno d'ambizione. Ha messo bottega a un tiro di schioppo e l'ha riempita di macchine. Per allungare, per allargare, per cucire, per battere suola. Non saprei neppure dirle, io non sono mai andato a vedere, me l'hanno raccontato. Ha messo dei bigliettini col suo indirizzo e il telefono dentro a tutte le buche per le lettere del vicinato. Anche il telefono, sì, neanche fosse una levatrice. Lei crederà che gli affari gli siano andati subito bene. I primi mesi, sì, un po' per curiosità, un po' per metterci in concorrenza. Qualcuno da lui ci è andato. Anche perché in principio teneva i prezzi bassi, ma poi ha dovuto alzarli quando ha visto che ci rimetteva. Faccia attenzione che io tutte queste cose gliele dico senza volergli male. Ne ho visti tanti come lui partire al galoppo e rompersi la testa. Ciabattini e mica solo ciabattini. Ma lui, me lo hanno detto, voleva male a me. A me mi raccontano tutte, sa chi? Le vecchiette. Quello che hanno male ai piedi e non trovano più nessun gusto a camminare, hanno solo un paio di scarpe. Quelle vengono da me, aspettano sedute che io gli aggiusti i difetti. E intanto mi tengono al corrente, mi raccontano la rava e la fava. Lui mi voleva male a me e diceva in giro un mucchio di bugiarderie. Che risuolo col cartone, che mi ubriaco tutte le sere, che ho fatto morire mia moglie per l'assicurazione, che a un mio cliente è spuntato un chiodo dalla suola e poi è morto di tetano. E allora, quelle cose a questo punto, capisce che io non mi sono stupito mica tanto quando un mattino, in mezzo alle scarpe della giornata, ho trovato questo cartoccio. Ho subito capito il macinato, ma volevo essere sicuro. Così ne ho dato un poco al gatto e dopo 2 ore è andato in un angolo e ha vomitato. Allora ne ho messo un altro poco nella zuccheriera. Ieri mia figlia e io ne abbiamo messo nel caffè e dopo 2 ore abbiamo vomitato tutti e due. Adesso poi ho anche la sua conferma e sono soddisfatto. Vuole fare denuncia? Ha bisogno di una dichiarazione? No, no, gliel'ho detto, è solo un povero diavolo e non voglio rovinarlo. Anche per il mestiere il mondo è grande e c'è posto per tutti. Lui non lo sa, ma io sì. Allora? Allora domani gli rimando il cartoccio da una delle mie vecchiette insieme con un bigliettino. No, anzi no, glielo voglio riportare io, così vedo che faccia e gli spiego 2 o 3 cose. Si guardò intorno, come uno che farebbe in un museo, poi aggiunse: bel mestiere anche il vostro. Ci va occhio e pazienza. Chi non ne ha, è meglio che se ne cerchi un altro. Salutò e si riprese il cartoccio e discese senza prendere l'ascensore, con la tranquilla dignità che gli era propria. Fantastica lettura, grazie Marta. Facciamo una prova con Jack Manzukic, che ci ha raggiunto da Atene, vediamo se ci sente e se riusciamo a sentire lui. Ciao, mi sentite? Funziona? Se no sarebbe comunque carino, perché sembrerebbe tipo un dialogo tra te e te stesso con una voce immaginaria. Le persone che dovrebbero immaginarsi le domande e le risposte. Per fortuna ci sentiamo tutti con tutto. Prima cosa ci devi spiegare dove sei andato a passeggiare. Prima cosa che vi spiego è dove sono andato a passeggiare. Sono andato a fare due passi. Intanto, vabbè, sono ad Atene perché ci vivo e ci lavoro. E sono andato a fare due passi nel vecchio quartiere anarchico, che è molto molto carino. E fortunatamente ha qualcosa ancora aperto per mangiarsi un boccone. E soprattutto un paio di enoteche, niente male, sono andato a prendermi un paio di bottiglie di vino per stasera, per la settimana, e questo è, diciamo, conosco alcuni shop molto, molto interessanti, qualche vecchio nonno che ancora si diletta a smerciare bottiglie sotto banco come si usava una volta, e purtroppo sono molto un nonno anche io e adoro questo tipo di commercio. Ma questo molto poco complotto ego, ma... con le contro le autorità costituite, non sei contro? Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Noi non ci piace il capitalismo, ma ci piace questo tipo di cosa qui. Fantastico, allora direi che è arrivato il momento. Chiedo già scusa per il ritardo e anche per la mia remoscia, che secondo me, che per chi ci ascolta, deve far veramente cagare. Ma... Allora, io credo che non ci sia programma radio senza qualcuno che pronuncia la R in questa maniera. In tutto il mondo. Cioè in tutto il mondo. Anzi, forse aiuta a ricordarselo. Assolutamente sì. E perché sei ad Atene in particolare? Io sono ad Atene perché mi piaceva la città, perché c'ero già venuto per studiare, e ero rimasto affascinato dalle persone, dal clima che è decisamente più mite e caldino di quello milanese, e dalla gradevole opportunità di andare in metropolitana al mare, e dal costo della vita decisamente contenuto, e da un sistema, diciamo, di vita, di sociale molto... fatto molto più di prossimità che non di, no, mega city e turbocapitalismo avanzanti. Quindi sono ritornato con molta felicità, ho trovato un lavoro che mi piace molto come ingegnere, mi occupo di sviluppo di rinnovabili in Africa, e quindi non c'è solo, diciamo, una gradevole situazione in quanto vita ad Atene, ma anche a livello lavorativo sono abbastanza contento di lavarmi la coscienza quotidianamente con questo lavoro. Spiegaci meglio questo lavoro, perché mi sembrava che ci fosse del complotto anche in questo. Beh, in realtà sì, nel senso che il nostro lavoro è diviso in due parti. Una è molto bianca e colonialista, fatta di mettere i pannelli fotovoltaici, no, sui lodge e i meravigliosi resort safari kenioti. Però perché d'altronde in un qualche modo tutti noi dobbiamo riuscire a mangiare, no? E poi c'è una parte legata un po' più a uno sviluppo sociale, quindi di sviluppo di piccoli centri di rinnovabili in posti sperduti dal mondo, tra cui il Congo, che tra l'altro è alle cronache in questi giorni per l'uccisione dell'ambasciatore italiano. Per fortuna, diciamo, noi lavoriamo da tutt'altra parte del Congo, non nella zona più delicata, che è quella appunto vicino a Goma, dove è stato assassinato l'ambasciatore. E quindi, diciamo, il nostro lavoro è fatto di due facce, una un po' più bianca e colonialista e una un pochino più umanitaria. Fammi usare questa parola, sostenibile. Poi non la uso più, giuro, non la uso più. La bagniamo la parola sostenibile e teniamo la parola complotto. Esatto. E adesso sta a te, Gio? Sì, beh, mi presento allora, anche se in verità ti farò una domanda prima. Noi sappiamo molto poco del Congo, se non delle sue miniere di coltan, delle sue infinite risorse che noi bianchi colonialisti sfruttiamo. Sfruttiamo. Se sai qualcosa in più di questa notizia, di questo ambasciatore? No, attualmente no. Cioè, ne so molto, molte notizie, diciamo, di carattere, non so come dire, wikipedico a proposito del Congo. Ce ne sono alcune molto carine, tipo l'uranio utilizzato dagli americani per le bombe di Hiroshima e Nagasaki viene proprio dal Congo. E inoltre queste miniere ne ho poi utilizzate anche come, no, come merce c'è di scambio con gli americani per tantissimo tempo, tanto che le lezioni si ricordano forse solo negli ultimi anni, proprio perché la possibilità che queste miniere e che il Congo finisse ad esempio sotto l'ala protettiva dell'URSS e che l'URSS avesse così un approvvigionamento semplice di uranio spaventava molto i nostri amici statunitensi. Quindi anche a livello geopolitico il Congo in realtà è sempre stato un po' il centro del mondo per la sua ricchezza mineraria, tuttora lo è per cobalto, no? Per tutta l'industria anche dei microchip, dell'elettronica, eccetera. È comunque abbastanza al centro del mondo. Assolutamente, ma quindi ci aspettiamo che l'ambasciatore ucciso sia parte di un complotto, una specie di colpo di Stato. Adesso il Congo ha tante forze ribelli, immagino, oltre all'autorità costituita, un po' frammentato. In realtà l'autorità costituita è salita al potere, se non sbaglio, quest'anno, su elezioni che gli osservatori internazionali hanno definito oneste, per utilizzare un termine tranquillo. L'America però, e gli stati colonialisti hanno deciso che erano oneste. Esatto, esatto. Quindi siamo tutti molto, no, rinfrancati da questo tipo di decisioni. E, però c'è da dire che la zona, appunto, al confine con il Ruanda, appunto, la provincia del Kivu settentrionale e meridionale, quindi Ruanda, Uganda, Congo, quel confine lì, è sempre stato molto caldo, perché ci fu appunto il famoso genocidio degli Hutu da parte dell'etnia Tutsi del Ruanda, che non solo finì in genocidio brutale, ma tutti, diciamo, i Tutsi, cioè coloro che ammazzarono tutti gli Hutu, si riversarono da Ruanda al Congo. Quindi, diciamo, gli assassini se ne finirono allegramente in Congo e accolti, perché poi nel loro stesso paese avevano rischiato il linciaggio. Quindi tutta quella zona lì è un po' non so come dire, una polveriera mai spenta decisamente. Perfetto, allora grazie mille dell'insight, di cui non eravamo a conoscenza, almeno io non ero a conoscenza, qualche conoscenza relativa al coltan, ai diamanti. Io invece sono a Milano già da un paio d'anni ormai, e per lavorare a questo progetto sociale che è l'associazione Exalge, che ospita questa radio, e mi definisco anch'io volentieri un ingegnere, anche se non faccio progetti ingegneristici, non ho un titolo che lo può dimostrare. Quello neanche io. Ah, neanche tu, perfetto, come mai? Ma perché non l'ho fatto, non credo nei titoli, zero titoli, quindi questa è la situazione. Arriviamo dalla pseudo-ingegneria, possiamo chiamarci così? Alla pseudo-radiofonia. Alla pseudo-radiofonia, perfetto. Passando da società milanese a vari progetti in giro per il mondo, dove il clima è più ospitale. È più mite e ospitale. Andiamo con Catamaran di apertura. Adoro. Allora. We'll be right back. perché si lamenta che non c'è l'indice. Questo scatta alla Stavo pensando una cosa, che sarebbe carino anche dire che stavamo parlando di questa ora del complotto, di questo programma un anno fa assieme, proprio all'inizio di uno dei più grandi complotti di tutto quest'ultimo anno, che è quello del coronavirus. Assolutamente, ci eravamo organizzati per andare in onda già un anno fa e si è visto come ci siamo organizzati bene nel frattempo, quasi come la sanità lombarda, siamo riusciti a organizzare in un anno perfettamente. E diciamo cioè, che noi abbiamo chiamato la Moratti. Non abbiamo chiamato la Moratti, noi siamo riusciti a fare senza. E un'altra cosa, non abbiamo chiamato neanche il Berlusca. E tra l'altro avevamo detto che non parlavamo di Covid nella prima puntata, l'abbiamo soltanto sfiorato. E non lo faremo. Non lo faremo, l'abbiamo soltanto sfiorato. Invece mi sembra che un possibile argomento tra quelli che abbiamo preannunciato in precedenza sia il concetto di massa critica, il grande Berlusca, sì, che non manca mai, oppure qualche news da Atene riguardo alla legge Kerameos della polizia nell'università. Direi lascerei a te l'onore di scegliere di quale argomento trattare per primo. Dai, parliamo della legge Kerameos, che c'ho ancora un po' di saliva in bocca e non mi devo fermare per bere. Perfetto. In questi giorni, allora, la prenderò alla larga, no? Cioè, c'è una cosa molto interessante riguardo questo paese, che è che dopo la Seconda Guerra Mondiale molti paesi europei comunque hanno visto un incremento del loro welfare, o se vogliamo un processo di democratizzazione, chi più chi meno, pensiamo alla Spagna con Franco o il Portogallo con Salazar, in realtà questo concetto può sfuggirci un pochino di mano. E in Grecia successe più o meno lo stesso, nel senso che dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu una pesante dittatura conosciuta come dittatura dei colonnelli, e che tra l'altro lasciò numerose cicatrici sulla popolazione, sulla memoria collettiva per svariati motivi. E uno degli apici che raggiunse questa dittatura fu i cosiddetti fatti del Politecnico. Quindi comunque si torna sempre a parlare di noi ingegneri in un qualche modo, proprio perché la facoltà di ingegneria e alcuni studenti si ritrovarono all'interno del Politecnico per fondare una radio. Guarda caso, ci ricolleghiamo sempre a quest'ora del complotto, proprio per complottare tutto sommato contro l'autorità costituita e inviare alla popolazione dei messaggi di insurrezione. E quello che successe fu che i colonnelli spedirono in una maniera molto democratica e diciamo tirannica, in realtà assolutamente tirannica, dei carri armati al Politecnico per far uscire gli studenti che si erano arroccati nelle loro posizioni. Quello che successe fu che 36 studenti vennero massacrati, cose che ci riportano in un certo modo alla Diaz di Genova in tempi più recenti, ma la storia è sempre quella: quando c'è un'insurrezione si rischia, soprattutto nei luoghi di cultura, che in primis sono le scuole e le università, quello che succede è che tendenzialmente il potere può non digerire questo tipo di insurrezione. Quello che successe fu che vennero barbaramente massacrati questi studenti, e da allora, in ricordo di quella data, che è il 27 novembre del 1973 o 76, non mi ricordo mai, è festa nazionale ed è lutto nazionale. E proprio in memoria di questo, la polizia e in generale tutti i corpi delle forze dell'ordine sono strettamente banditi da qualunque ingresso di università pubbliche o private, perché non è possibile, non è vietato severamente dalla legge legge lasciare che delle forze dell'ordine entrino nei luoghi che sono di cultura. C'è da dire che l'università greca è molto lontana da degli standard che potremmo definire qualitativi, che potremmo definire a livello europeo, nel senso che gli edifici sono fatiscenti, ci sono cani randagi all'interno che magari ti entrano nell'aula dell'esame e si schiacciano un pisolino russando mentre tu stai cercando di scoprire il rendimento di una turbina gas, cosa che mi è successa, questo è un aneddoto. Tu speravi di fare l'esame tranquillamente e invece si è messo a ronfare tra un banco e l'altro. Tra l'altro, esattamente, una cosa molto interessante è che tu hai potuto fumare durante gli esami. Sì, sì. Non vogliamo assolutamente sponsorizzare né Philip Morris né Marlboro, non facciamo il loro nome, ma però sì, allora ecco, questo è un ottimo modo per dire anche come sono l'università, nel senso che tu stai facendo un esame e hai il sacrosanto diritto di accenderti una paglia mentre stai facendo l'esame per riflettere un po' meglio. Poi se ti viene a cagare nel mezzo dell'esame a causa di quella sigaretta, tutto, sono un po' problemi. La responsabilità. Esatto. E qua leggo che sono anche entrati con un MAX 30 class military tank. Sono entrati in università dal cancello principale con un cazzo di carro armato, semplicemente. Usava molto in quei tempi usare carri armati contro gli studenti. Deve essere stata una moda delle autorità costituite in giro per il mondo. Si vede che si erano parlati. Hanno detto: boh, abbiamo i carri armati, usiamoli. Eh sì, c'era da un lato il flower power e dall'altro il tank power, diciamo. Giustamente. Ma tra l'altro c'è una statistica interessante che dice che il numero di carri armati pro capite in Europa, la media è 1, in Grecia è tipo di 14. Questo per dare un'idea di quanto siano tuttora un paese bello militare. Li vedi parcheggiati in seconda fila, praticamente. Quasi sì, sai, quasi sì. Quasi sì, quasi sì. E tornando alla legge Karamanos, quello che sta succedendo in questi giorni è che sostanzialmente il governo di Kyriakos Mitsotakis, che è un governo di neodemocrazia, che è il partito liberale di destra greco, sta sponsorizzando molto il rientro delle forze dell'ordine all'interno dell'università, perché effettivamente l'università qui è ancora molto molto politicizzata e ci sono sovente dei casi anche di intimidazione al rettore fatti da gruppi di anarchici o gruppi politicizzati di studenti, e questo può essere anche un signor problema, perché per quanto nessuno voglia delle forze dell'ordine all'interno dell'università, dall'altro lato c'è da dire che la situazione è quanto mai delicata. Certo è che diciamo una via di mezzo poteva essere trovata, soprattutto nel bel mezzo di una pandemia mondiale. L'idea di spendere soldi per arruolare 1000 nuovi poliziotti da mandare all'interno dell'università, soprattutto con le cicatrici nazionali che uno ha, è sembrata una mossa un po' avventata. Diciamo che se gli studenti possono minacciare il rettore, allora magari le autorità si spaventano, dovevano fare le cose in maniera diversa piuttosto che minacciare il rettore non appena hanno sentito puzza di congiura e di complotto. Le autorità sono intervenuti con tutte le forze, perché quello che hanno fatto alla fine è al limite, un po' al limite anche in base alla loro storia nazionale, come dici tu, e vedremo cosa succederà, perché di solito da provocazione nasce provocazione. Assolutamente, assolutamente. Per ora ci sono grandi manifestazioni e grandi scontri in piazza, cioè molti hanno fatto multe per 20.000 studenti, una roba abbastanza folle. Hanno arrestato anche insegnanti che protestavano, insomma è stata proprio una cosa molto sentita in questi giorni. Apro e chiudo velocissimamente una parentesi: questo è anche un paese molto riottoso, nel senso, se qualcosa non va, c'è una manifestazione, le persone non hanno assolutamente paura a prendere una spranga e a massacrarsi l'un l'altra per strada. Quindi è anche abbastanza un po' come i francesi, viene da dire, no? Cioè, quando anche un francese si incazza, tendenzialmente dà fuoco agli Champs-Élysées. Qui non ci sono gli Champs-Élysées, ma qualcosa qui dà fuoco lo si trova lo stesso. Sempre un ascoltatore che teniamo nell'anonimato mi fa sapere che i carri armati in Turchia servono, in Grecia servono per i turchi, che in verità non li usano non li usano per gli studenti ateniesi, ma per i turchi. Diciamo che non li usano più. Non usano più gli studenti. Diciamo che assolutamente ci sono esperimenti. C'è una fortissima paura nei confronti dei turchi. Ci sono esperimenti in tutto il mondo di disarmo. Forse c'è una nazione in particolare che si è dichiarata completamente disarmata e sembra che stia vivendo abbastanza bene. Si spera che questo obiettivo venga raggiunto da tutte le nazioni. Finora appunto credo ce ne sia una su 200, ma ci crediamo tutti. E così che si possa tornare a fare la guerra a cazzotto e vedere chi è veramente chi è veramente migliore. Assolutamente. Comunque sì, ha assolutamente ragione il nostro ascoltatore che i carri armati non servono per gli studenti ma per i turchi, perché qua si cacano molto addosso per i turchi. Così c'è ancora la leva obbligatoria. C'è la leva obbligatoria, poi hanno un sacco di forze, insomma. Sì, assolutamente sì. Sono una gran nazione, lo sono sempre stati e lo sono, e se magari non se ne parla abbastanza, i turchi sono belli forti. Infatti sì, qua sì, sì, viene anche nominato nel 1974 la giunta che aveva portato i carri armati all'interno dell'università è caduta dopo l'invasione turca di Cipro. Cioè, novembre di assolutamente sì. La situazione di Cipro è una situazione incredibile all'interno dell'Europa, nel senso che è un'isola divisa, spaccata completamente a metà, con metà turca e metà di nazionalità cipriota, che è filo ellenica comunque, ma che rimane un confine all'interno dell'Europa, come potrebbe essere l'Irlanda del Nord con l'Irlanda negli anni 90. Rimane con la Piemonte, insomma, una linea si può tracciare dappertutto, tanto ha una dimensione sola ed è la lunghezza, non lo spessore. Finché qualcuno costruisce un muro di qualche metro, vedremo quanti muri verranno costruiti e quanti riusciremo ad abbatterne. E prossimo argomento direi che potrebbe essere quello dei mask e di game. Oh yes. Cosa ne dici? Ma dobbiamo far partire prima la canzone? Volentierissimo, lo affrontiamo dopo sossego. Andata per sossego. Così mi devo un bel litro d'acqua. Yeah. nuovo in redazione. Manzukic, ci sei? Pronto? Eccoci. Andiamo su Reddit. Andiamo su Reddit. Fantastico, favoloso mondo di Reddit, che altro non è che un internet ripiegato dentro se stesso, è altamente vasto, è ugualmente vasto. Io è tipo Inception di internet. È un internet dentro l'internet. Cioè dentro Reddit c'è tutto Reddit e c'è tutto internet e c'è tutto Reddit dentro internet due volte. Esatto. Quindi, che cosa è successo? Allora, Reddit non so te, ma io l'ho sempre usato solo per vedermi le partite di calcio in streaming. Poi non so se tu ne hai fatto qualche utilizzo più fantasmagorico dei miei. No, assolutamente, lo uso un po' come stack exchange di programmazione, codici, cose del genere. Vedi, non sapevo che ci fosse anche questa cosa dentro Reddit. C'è tutto. E che cosa è successo? Tra le tante le cose che ci sono quindi all'interno di Reddit, ce n'è un'altra che è una pagina dedicata a consigli su investimenti finanziari, di cui probabilmente quasi nessuno fino a qualche settimana fa, anzi oramai un mese fa, aveva sentito parlare, ma che invece è andata in auge un sacco in tempi recenti, che è Reddit/Wall Street, che è sostanzialmente una pagina dove una moltitudine di persone quasi trollesche da un punto di vista dell'immaginario internet si riversava per scambiare e offrire consigli sulla borsa, quindi su quali azioni comprare, che obbligazioni, come muoversi all'interno dei mercati finanziari. Ed è successo un po' una cosa che di cui ci piaceva parlare in quest'ora del complotto, perché effettivamente questo gruppo di persone si è messo a sfidare l'autorità costituita, dove l'autorità costituita in questo caso erano i grossi investment fund o hedge investment e come. Sostanzialmente quello che è successo è stato che un'azienda che tutti noi conosciamo si chiama GameStop, che più o meno era ed è, perché non è ancora morta, il Blockbuster dei videogiochi, che a causa appena caduto la diretta. Mali mortacci sua. Che è troppo una canzone degli anni 90. Ho una connessione degli anni 90. Ripartiamo adesso con una traccia rap direttamente in greco. Con μάτια, σηκώθηκε πάλι αργά φρισμένα μάτια. Κίτρινα δάχτυλα, ξεχυλά τα σάκια. Και δέρμα από καπνό και τα χαρτάκια. Ζεσταίνει χτεσινό καφέ που μπορεί δύο χάπια. Βγαίνει έξω για τσιγάρα και φάει. Με τα πόδια. Πόδια και μυαλό που σε πάνε χώρια. Λόγια που σε κόβουνε στα δυο και λόγια. Λόγια που σε καίνε σαν χολή. Και δεν τα θυμάσαι το πρωί. Και δεν τα θυμάσαι. Έχει στόματα να θρέψει κι άγχος για τα φράκα. Τε φοβάσαι έτσι, μην μοιάσει και στο γέρο σου. Είσαι μόνος και στα κουμπιά σου και ελεύθερος και πολιορκημένος. Στα πεζοδρόμια από τα 14 ρομαντικά ξεγεννημένος. Αφεντικό της απώλειας, παιδί. Σκλάβος της αντίδρασης, καλό παιδί. Μα κάπως και σου κόβει ωραίο παιδί. Για άλλους απρόβλεπτους, μα πάνω κάτω εντάξει παιδί. Πολύ γνωστοί, μόνο δύο φίλοι που είναι τώρα νεκροί. Σε παρδενεύτηκε στα γρήγορα από αγάπη πικρή γύρω στα 20. Πέδω και κνέ και αναρχία και σχολείο. Απ' όλα πέρασες νωρίς και τα παράτησες νωρίς. Γιατί μπορούσα και χωρίς. Ναι, σίγουρα πάντα σε τράβα και το δύσκολο. Και σε σπρώχνε μπροστά το απίστευτο. Δεν είσαι δαίμονα στη γη στην κόλαση. Σαν κελούδι κι αν δεν γυρίσει σελίδα θα τελειώσει το τραγούδι. μια ζωή ζαλακωμένη λόγια. Μια σελίδα πεταμένη σε μια γωνιά. Ονειρά κακογραμμένα λόγια. Λόγια με μακαραγμένα στο δε στο δέρμα. Ένα ήρωα προδότη λόγια. Ένα άμαχο στρατιώτη ψέμα. Παιχνίδια απαγορευμένα λόγια. Λόγια καταχωνιασμένα σε μια γωνιά. Λόγια απαγορευμένα λόγια. Λόγια καταχωνιασμένα λόγια. Λόγια απαγορευμένα λόγια. Λόγια καταχωνιασμένα λόγια. Δεν είμαι καν μια στατιστική. Και παρά είμαι συνηθισμένος για ταινία χολιγουδιανή. Εγώ είμαι εδώ και εσείς εκεί. Μια ρήμα μισή και παρακατιανή. Τσιμέντο, σίδερα, οικοδομή τη νύχτα. Κι όλα από λίγο μου περισσεύει αντοχή. Μα άλλο λέω πως θα φύγω, αγαπημένος μου στίχος. Για κοίτα φίλο μου που πάντα ξεμένο. Κι ο κόσμος μου ίδιος και απαράλλαχτος παγώνει. Κι ότι αγάπησα περισσότερο αυτό είναι που με πληγώνει. Χωρίς ταυτότητα νιώθω πια στην έχω στην τσέπη μου πάντα. Γι' αυτό κάνω ό,τι κάνω όταν κανείς δεν με βλέπει. Τζάμπα όλα μπορεί να πάνε στην τελική. Και μην νομίζεις ότι δεν ονειρεύομαι μια ζωή πιο κανονική. Μα με ξυπνάει πάντα ο κρύος υδρότας την τελευταία στιγμή. Και ένα άρωμα στον αέρα από ατόφια παρακμή. Μια ζωή ζαλακωμένη λόγια. Μια σελίδα πεταμένη σε μια γωνιά. Ονειρά κακογραμμένα λόγια. Λόγια με μακαραγμένα στο δε στο δέρμα. Ένας ήρωας προδότης λόγια. Ένας άμαχος στρατιώτης ψέμα. Παιχνίδια απαγορευμένα λόγια. Λόγια καταχωνιασμένα σε μια γωνιά. Λόγια απαγορευμένα λόγια. Λόγια καταχωνιασμένα λόγια. Λόγια απαγορευμένα λόγια. Λόγια καταχωνιασμένα λόγια. Δεν είναι καν μια στατιστική. Δεν είμαι καν μια στατιστική. Δεν είμαι καν μια στατιστική. È una pagina molto curiosa perché queste persone sembrano quasi dei troll, no? Sia dal loro modo di scrivere i commenti che dalla metodologia con cui espongono, diciamo, le loro opinioni. Però in realtà, nel senso che è successo un po' un crollo finanziario grazie a loro, nel senso che, cioè, come stavano dicendo, questa società che si chiama GameStop, che è una società che, era un po' che è un po' il blockbuster dei videogiochi e delle console, che sta lentamente perdendo sia l'identità che l'appeal sui clienti, perché i videogiochi si possono scaricare direttamente sulla console, la console stessa me la compro su Amazon, e quindi che cavolo ci vengo a fare su GameStop? Sono ancora analogici in un mondo che ha deciso di optare per il complotto digitale, insomma. Esattamente. E virtuale piuttosto che concreto. Esattamente. E quindi che cosa è successo? Che in buona sostanza, quando una società va male nel mondo della finanza e dell'azionariato, esiste la possibilità di scommettere proprio sul suo fallimento, no? Le meraviglie di questo fantastico capitalismo. E esistono persone che, diciamo, attraverso questa scommessa ci guadagnano fior fior di denari, chi più chi meno, in funzione di quanto il fallimento è dato per certo. Infatti moltissimi investitori hanno scommesso sul fallimento di GameStop attraverso una pratica che viene chiamata shorting o short selling, che consiste nel prendere, diciamo, a cricchio in prestito delle azioni da un broker, rivenderle essendo consci della loro diminuzione di valore, e attraverso questo scambio si materializza il guadagno di chi ha preso le azioni ed è riuscito a venderle ad un prezzo più basso, ridando indietro i soldi al broker che aveva cominciato tutta questa faccenda. Ma questo gruppo di persone all'interno di Reddit, attraverso una serie di notizie che circolavano in alcuni ambienti, per cui alcuni importanti investitori invece stavano pensando ad un rilancio di GameStop, oppure semplicemente per il gusto e per la pazzia di investire su qualcosa che sembrava stesse fallendo, hanno cominciato ad investire in massa. Non sappiamo la quantità di persone che è riuscita a investire su queste azioni, ma si è creato un po' un effetto a catena. Perché quello che succede quando, diciamo, queste persone effettuano uno short selling è che, chiaramente, vedendo tante persone che vendono, il prezzo delle azioni va in ribasso. Allo stesso modo, quando tante persone invece cominciano a comprare delle azioni, il prezzo delle azioni in lievita, perché significa che c'è una domanda superiore, diciamo, all'effettiva offerta. Ed ecco che e questo provoca un tralasciando un circolo, il meccanismo esatto dello short selling, diciamo che chi stava scommettendo sul fallimento si trova immediatamente a vedere questa impresa decollare e grazie a questo gruppo di Reddit che si è messo d'accordo appunto per farla decollare, poi non si sa se a danno loro o semplicemente per gusto, per guadagnarci poi in seguito, l'impresa decolla, insomma. E questi qua di Wall Street che stavano un po' scommettendo sul fallimento se la saranno presa, insomma. Sì, anche perché se la saranno presa il culo, mi viene da dire, per usare un francesismo, questo sicuramente, perché si è fatto un conto e si parla dei 3 ai 30 miliardi persi in borsa, anche perché è un effetto domino, nel senso che i short seller, vedendo che tutti stanno comprando e loro invece sono costretti a vendere, cominciano a comprare anche loro, quindi aggiungono a una massa che già è sostanziosa di persone che comprano altre persone che comprano, facendo lievitare ulteriormente il valore dell'azione stessa, quindi creano un effetto domino di proporzioni bibliche, sì, e molte di queste persone hanno il valore dell'azione, giusto? Buono. Il valore è sempre di 1000 volte, no? 100, 1000 volte. Mille. Infatti ci sono persone che dicevano, uno dei capi, comunque dei più importanti redditor, diciamo, di questo gruppo, diceva di aver guadagnato qualche milione, vai a sapere. No, però è che se sei messo 1000 euro ed è un per 1000, 1000 per 1000 fa un milione, quindi non male, un buon investimento, diciamo. Allora, tutti i soci Exalge, vi siete tutti invitati, scriviamoci su un gruppo da qualsiasi parte, che sia Meet, Reddit o WhatsApp, e decidiamo tutti insieme che azione fallimentare iniziare a comprare. Esatto, se abbiamo particolare simpatia per un'azienda che sta per fallire, ma che magari apparteneva alla nostra infanzia. La Lego, chissà la Lego come sta andando in questo momento. La Lego va da Dio. La Lego va sempre da Dio. Sì, pensa che avevo letto un articolo sul fatto che i Lego proprio sono dei beni rifugio. Cioè stanno diventando dei beni rifugio tipo l'oro. È il dollaro. Il dollaro. 200 euro adesso. Hai fatto l'affare. Geniale. Sì. Musk mi sembra che abbia fatto un po' una cosa simile, se non è short selling, è short buying. Inside trading. Praticamente comprato un sacco di azioni, perché alla fine non cambia molto, ormai tutto è una moneta di scambio, che sia un'azione di una società o una moneta o una criptovaluta. Comprato un sacco di bitcoin senza dirlo a nessuno, poi a un certo punto ha annunciato a tutti che ha comprato un sacco di bitcoin per la seconda volta, e a quel punto il valore è schizzato alle stelle, e con il suo secondo acquisto è riuscito a coprire il suo primo, no, con il suo primo acquisto in sordina è riuscito a coprire il suo secondo acquisto pubblico e a moltiplicare il valore del suo primo acquisto di quasi il doppio, avendo investito 1 miliardo, mi sembra. Sì, 1 miliardo e spicci, viene da dire. 1 miliardo e spicci in tutto, la prima volta avendo investito leggermente di più è riuscito a guadagnare qualche spiccio di miliardo, soltanto dicendo che l'avrebbe fatto la seconda volta, insomma. Non è un meccanismo che ho spiegato troppo bene, ma praticamente spara. No, è che poi tra l'altro è curioso, perché alla fine è un po' quella frase della pubblicità, non è l'attesa stessa del piacere, il piacere, no? Nel senso che lui ha fatto quasi una mossa da quel livello lì, non so se si riesce a cogliere la metafora, ma il senso è che è riuscito a sparare semplicemente dicendo l'ha fatto lievitare un valore in una maniera, no, esponenziale. Assolutamente, la sua mossa geniale è stato anche il riuscire ad acquistarlo e a non far lievitare il valore del suo primo ingente acquisto, e subito dopo però la sua mossa era quella di fare un secondo acquisto leggermente meno grosso ma molto più mediatico, quindi con un valore attribuito molto più grande. Sì, ma anche perché l'ha twittato, mi ricordo. Ha twittato, cioè, l'ha proprio ha fatto proprio apposta per far schizzare il suo valore alle stelle, perché l'informazione è la moneta di scambio del nostro tempo. E specialmente poi nei mercati finanziari, no? Cioè si basano tutti sulla conoscenza o meno di un dettaglio. Esattamente, quindi se nessuno sapeva che lui avesse già investito 800 milioni in Bitcoin 2 settimane prima, e allora il valore è schizzato alle stelle, e il suo secondo acquisto di 600 milioni di dollari equivalenti in Bitcoin, è riuscito a raggiungere molto di più del valore totale del 1.400.000.000 totalmente investiti. E adesso ti faccio una domanda di cui io so già la risposta, ma mi era piaciuto lo scambio che avevamo fatto, che è: ma tu hai dei Bitcoin? Sì, che ridere. Allora, io tra i 3, 4, 5 portafogli Bitcoin aperti, e ovviamente io ho fatto questo gesto per favorire la crescita dei Bitcoin successivamente al 2012. Quando andavano molto in voga, c'è stato il primo picco che non è minimamente comparabile al picchi che ci sono adesso, ma è stato bello. No, anche perché schizzava $100 a $1,000 a quel periodo, no? Esattamente. Faceva dei salti così. Di base c'era un gran passaparola tra le persone che lo utilizzavano e cercavano di spacciarlo, mettiamola così, a tutti gli altri, e dicevano: dai, fatti un portafoglio Bitcoin, ti dono delle Bitcoin, addirittura te le davano, ovviamente una minima percentuale, qualcosa di minuscolo, giusto per aprire un portafoglio. E io l'ho fatto più volte, perché la prima volta dopo un po' mi sono scordato la password, e la seconda volta pure, la terza anche, la quarta uguale. E basta, quindi ho 4 portafogli di Bitcoin di cui non conosco la password, con qualche centesimo di Bitcoin sopra che non ho neanche la minima idea di quanto possa valere adesso, ma in ogni caso col tanto direi che occorre fare una precisazione, che è che se non, correggimi se sbaglio, però se non sbaglio la password del portafoglio Bitcoin è univoca, e se non te la ricordi ciccia al culo, cioè non la recupererai mai più e ti attacchi, come dici tu, ciccia al culo. Scomparsa, quei soldi sono praticamente andati a far accrescere il valore delle Bitcoin tuttora in mercato, e visto che non circoleranno mai, non contribuiranno mai all'economia delle Bitcoin, io di base ho fatto salire il prezzo medio o il costo medio delle Bitcoin nel mondo, nel mio piccolo, senza neanche volerlo. Ma infatti ma questo non lo saprà mai nessuno. Adesso si spera, qualcuno lo saprà. Ma tra l'altro ci fu un caso simile, non mi ricordo se tipo con 50 Cent o Kanye West qualche anno fa, quando ci fu un primo grosso salto tipo da 2-3 mila dollari ai 18-20, che poteva essere 2016, una roba del genere, che non mi ricordo appunto se 50 Cent o Kanye West avevano anche loro un tot di portafogli aperti di cui non ricordavano le password, con X Bitcoin dentro, e che anche quelli, no, sono un po' sepolti lì nell'etere. Chissà quanti soldi ci avevano loro sopra, però non si tratta di centesimi sicuramente. loro hanno fatto il lavoro che dovevo fare io, insomma. E te come ti senti? Cioè, Ti dispiace l'idea di avere appunto, diciamo, una ricchezza sepolta come il conte di Montecristo? O... No, assolutamente. Oppure anche sti cazzi? Lo dedico alla buona causa. Cioè fare arricchire Elon Musk? No, assolutamente. In realtà è un complotto. In realtà se beccate i soldi da Elon. In realtà è un complotto, poi Elon Musk lo facciamo cadere piano piano anche lui. A furia di portafogli Bitcoin aperti senza essere usati. Allora, cosa dici? Partiamo con Asado de Fa? Donde manda capitán, muere, muere, muere, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? ¿Cuál es? Asado de verdura. Esto es un día rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura. No seas cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Hago un asado, me paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo para mi amigo el Valencia, para Xavi, para Nau, para el Tiro. Tengo buena suerte y mala racha. Parliamo di del grande, del grande, dell'unico, del solo, dell'innominabile, dell'irreprensibile, citando Aldo Giovanni Giacomo, del friabile e del friabile anche, direi, vista l'età oramai, no? Allora, te ha colpito soprattutto come cammina. Io non lo nomino neanche perché ormai tutti hanno capito di chi stiamo parlando. Parliamo dell'ex patron del Milan, l'onorevole indiscutibile Silvione Berlusconi. Ora patron del Monza. Ora patron del Monza, tra l'altro. Cioè, ho visto che sta andando bene, c'è il rischio che vada in Serie A. Assolutamente sì, cosa ti aspettavi? Che fallisse? Beh, d'altronde, cioè, se danno la squadra ad Adriano Galliani, qualcosina riuscirà pure a farla. Con un po' di fondi si fa tutto. Esatto. Ma tra l'altro è riuscito a tirare a sé anche quel disperato di Balotelli, ho letto. Ma dai, è già arrivato? Sì, sì, gioca al Monza con Boateng. Cioè, vabbè, pensa al mondo. Vabbè, ragazzi, è fantastico. È quasi una squadra. So, vince la Champions l'anno prossimo. Ma infatti non vogliamo dirvi di andare a comprare le sciarpine del Monza. Non so neanche che cavolo di stadio giochino. Ma fatelo ora, fate short selling, comprate le sciarpine del Monza, l'anno prossimo rivendete le sciarpine del Monza. Assolutamente. Comprate la maglietta di Balotelli ora del Monza per domani. Non so se hanno tatuaggi, io credo Boateng sì, che abbiano anche tutte delle creste prominenti, se non tinte, sì, mi ricordo un'intervista al Berlusca che diceva che voleva una squadra con i giocatori vestiti bene, pettinati bene, senza tatuaggi, che parlassero tutti bene, che fossero educati, che non facessero falli, ma che li subissero, insomma una roba un po' extra polite, extra perfect. Beh, dei galantuomini come lui, mi viene da dire, no? Dei gran galantuomini, dei cavalieri, galantuomini. Cavalieri. Comunque, se ci pensi, diciamo, poi questa era tutta una riflessione. La prima riflessione che veniva a fare è: ma quanto cazzo è vecchio? Allora, questo non è chiaro, perché ci sono delle teorie che ovviamente pensano, che narrano delle sue origini extraterrestri, che darebbero ancora più anni di quelli che dimostra. Ci sono addirittura lo pensano come il fondatore di Roma, del Geo, figurati, quindi proprio si parla di addirittura migliaia di anni fa, e non mi stupirebbe neanche più di tanto. Ma in realtà il Silvione è di anni 84, mi pare, non 84, sono comunque tanti, sì. E infatti non so se l'hai visto camminare, ma è veramente molto claudicante, non riempie più i pantaloni, non so come dire. No, non l'ho visto camminare, ma è un video che non va perso, però tu l'hai trovato solo su Twitter, perché su YouTube non c'è. No, l'ho trovato solo su Twitter. Mi fa dubitare dell'efficienza dei nostri social. Noi dovremmo essere dovrebbe essere più facile riuscire a distribuire l'informazione, la disinformazione. Invece no. Guarda, se ti può rendere felice, ho messo il link della radio di Exalge proprio su Twitter, proprio perché ci tenevo a esportare il complottismo anche... Le figure di merda con i microfoni e i volumi. Esatto. Okay. Tranquillo che tanto Mario Draghi non mi segue ancora, ma lo farà a breve. Lo farà. Sì. E allora metti anche il link del video su con Draghi, del Berlusco. Esatto. Lo farò. Beh, comunque era molto molto claudicante, cammina veramente a stento, ma quello che ci chiedevamo con Joe, cioè, settimana scorsa quando provavamo, era quanto sta essendo galantuomo con Berlusconi il tempo, no? Cioè, quanto... Non sappiamo se galantuomo è il tempo o se il cavaliere conosca dei mezzi alchemici post-medievali per mantenere la sua giovinezza sempre intatta. Crediamo di sì, a partire dal famoso trapianto di capelli del 2004. Non ti stupirebbe, ma non deve stupire nessuno, è palesemente ritoccato fino ai mignoli dei piedi. Non so se te lo ricordi quando si era rifatto appunto i capelli, che dicevi nel 2004 che andò alla partita del Milan con la bandana. Assolutamente, geniale. tipo la curva del Livorno con la bandana. Correva l'estate del 2000 e qualcosa molto presto, e il cavaliere si presentava con la bandana in Sardegna, e tutti pensarono che fosse per il sole, per il caldo, e invece a ottobre, novembre, la bandana persisteva sulla testa del cavaliere. E una folta chioma si accingeva a crescere, mi viene da dire. E ormai c'ha una spazzola che neanche Ginko e Diabolik è così perfetta. È proprio monocolore con la lucentezza e la sfumatura disegnata a matita, praticamente. Probabilmente è davvero disegnata a matita. Sì, sì, è lo spazzolone a matita del capo di tutti. Però se ci pensi, appunto, in questi giorni di Draghi, di mica Draghi, di governi, di mica governi, si è discusso molto, no? Anche del suo eventuale possibile ruolo di Presidente della Repubblica. È curioso. Cioè... Mi scioccherebbe abbastanza questa cosa. Scioccherebbe? In negativo, direi. Se era quello che stai per chiedere. Assolutamente sì. Ed è anche curioso il fatto che, no, all'interno delle forze politiche, poi nowadays, cioè oggigiorno, no, si riconosca comunque una figura da saggio quasi, come la potranno riconoscere in Mattarella, la si riconosca quasi in egual misura al Silvione Nazionale. La trovo una cosa abbastanza clamorosa, perché... Anche io. Sì, è un po' come dire... che Elon Musk potrebbe governare la nazione, o Jeff Bezos, o... però no, è difficile, diciamo, trovare un paragone calzante. È molto difficile trovare un paragone calzante, però è un imprenditore, è un imprenditore che è sceso in politica per proteggersi, per fare imprenditoria con il potere. E è abbastanza clamoroso che possa essere considerato saggio, forse in un mondo in cui la saggezza viene confusa con la furbizia, potrebbe essere eletto Presidente della Repubblica. Sai anche cosa secondo me succede? Che alla fine, diciamo, con il livello molto becero di comunicazione della destra, ma anche della sinistra, no? In generale un po' orizzontalmente su tutti i partiti politici 2021, quasi il suo tono è sempre molto istituzionale, quindi forse anche, no, grazie a questo tono che suona pacato e che suona appunto quasi da nonno saggio, gli si riconosce una caratura, una statura politica superiore a quella di chi manovra dal basso, e quindi dei classici partiti politici contemporanei, ecco. Non so, mi riesce molto difficile pensare ai contributi che un uomo del genere possa portare a una nazione. Mi basta ricordare le mutande del Bestetti. A parte le infinite barzellette di merda che racconta questo signore, veramente ti giuro, mi riesce difficile pensare che ormai non è più lucido. Lo diciamo con amorevolezza, guardando, anche perché ricordiamo che con tenerezza, cioè, come dici tu, 84 anni. 84 e sono 7. Sono 7, ma poi Mattarella può averne quanti ne vuole, però è lucido, insomma. Lui sì. Invece è una maschera di botulino impizzata di qualcosa e tira avanti in qualche modo, non si sa. Ma non parla più, non dorme mentre no, si parla. No, fatica, lo vedi che ha una patata in bocca. Ma vive col suo cagnolino, si addormenta quando parla, quando ascolta. Si scorda le cose. Una fidanzata 25enne. Ecco, diciamo che allora piuttosto preferirei il suo cagnolino al Presidente della Repubblica. L'ho detto, io non sono un difensore dei cagnolini, anzi, ma l'ho detto. Ma tra l'altro ti devo raccontare un aneddoto, e forse questo contribuisce in un qualche modo all'alimentazione di questo processo di giustificazione nei confronti del Silvione, che io tutti gli anni 29 settembre, col compleanno del Silvione, vado su YouTube per guardarmi le sue migliori figure di merda, perché quando c'era lui è una brutta frase, però insomma, quando c'era lui noi non, in realtà non eravamo secondo me così consci delle figure di merda a livello internazionale che faceva. Cioè, tu dici che sono diverse o peggiori o migliori di quelle che fa Renzi in questo momento? Secondo me erano diverse. In grande intervista alla BCE con Shock migliore. Because Shock because ma sai che sono riuscito a far passare quella canzone anche alle mie coinquiline spagnole? L'hanno capita, spero. È universale. Sì, ho fatto tutto, gli ho spiegato tutto il, no, il contorno. Però adesso tutte le volte che in casa qualcuno dice shock o because, gli parte il movimentino di collo della canzone di propaganda. Fantastico. Però sì, cioè, secondo me le sue figure di merda erano diverse, cioè erano veramente ridicole alcune. Lui forse si adottava adottava un traduttore personale. Non si impegnava a parlare in inglese, che forse è una cosa che potrebbero fare anche i politici di oggi, al posto che di dilettarsi in figure di merda come Shock Because oppure Shish, sempre dello stesso. Poi vabbè, ci sono altri che proprio appunto non si dilettano a parlare in inglese, non ci fanno sapere del loro livello. Tipo, grazie. Vabbè, cosa dici? Vorrei dare un indizio, e lo diamo anche a quei quattro gatti spelacchiati che ci ascoltano, su uno dei temi della prossima settimana. Fantastico. Che è quanto siamo scassacazzo noi italiani sulle ricette di cibo, quanto la tradizione ci fa diventare degli spaccaballe. Che voglia, ma adesso devi già dirmi qualcosa di più. Cioè, ognuno poi la fa alla propria maniera la ricetta, perché non viene mai uguale a quella che trovi. Guarda, ti dico solo che oggi ho trovato una pagina su Twitter che si chiama Italian Mad at Food e che ha trattato una polemica nata questa settimana da milioni e milioni e milioni, millions and millions, come direbbe Donald Trump, di italiani che hanno postato sotto il sito del New York Times, sotto i post del New York Times, che proponevano di fare una parleremo di ricette venute male, magari riusciamo a fare qualche testimonianza in giro per il nostro seguito. Sarebbe carino se qualcuno ci chiamasse, o magari tiriamo in mezzo qualcuno che c'è lì in Exalge per chiedergli i suoi peggiori piatti, più grandi aborti della loro cucina. Assolutamente sì. Non chiedo già adesso perché sarebbe troppo per i nostri ascoltatori, li abbiamo già fatto provare troppe emozioni per oggi. Allora andiamo con Sayonara, cosa dici? Ci salutiamo così alla giapponese. Grazie Gio. Grazie mille a te Mandzukic. Ci vediamo settimana prossima. Settimana prossima saremo pronti con altre 3 ore di random cazzeggio sul complotto. Ciao Jack da Atene. Ciao, saluti da Grecia. A presto ragazzi. A presto. The time has come for me to say sayonara. My heart will always be yours for eternity. I know sometime we'd have to say sayonara and promise that you'll be returning someday to me. I remember our romance until the day that I die. I see your face in the moon and stars in the sky. So hold me close before you say sayonara and promise that you'll always keep me near to your heart. So hold me close before you say sayonara and promise that you'll always keep me near to your heart. Sayonara. Di Leanderland, gli ambiti della conoscenza. Ridatemi Trololò. Che che proponeva di fare una